Vexilla Regis, prima parte, dalla 12ª raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Vexilla Regis, prima parte. Uscito? Così per tempo? E perché? La signorina Alvina Lander, tanto alta di statura quanto nel corpo magra, lunga di gambe e le braccia ossute, ciondoloni, l'enorme volume dei capelli ritinti d'un color d'oro scialbo e cascanti sugli orecchi, sulla fronte e, in neglette trecce, sulla nuca, picchiò con le grosse nocche su un uscio del corridoio in penombra e attese, abbassando le palpebre sui vivi occhietti ceruli mobilissimi. Per infermità di molti anni era insordita e per questa cagione dolentissima, benché non fosse questa sola. Ce n'erano altre, ciascuna delle quali avrebbe potuto fare più che infelice una donna, nonché tutte insieme, come ella spesso soleva esporre all'avvocato Mario Furri, della cui figliuola Lauretta era da 13 anni governante. E innanzitutto la perdita di tanta vita inutilmente, poi un certo tradimento, di cui il signor avvocato era a conoscenza e per cui quello stato di servitù in Italia, e la debolezza, se non la vecchiaia, venuta prima del tempo, e la ignoranza infine delle cose del mondo, causa di tanti mali e di tanti mancamenti, per i quali veniva accusata, quando invece avrebbe dovuto essere non solo scusata, ma compatita e soccorsa anche. Ma... Sospettava la signorina Lander che nell'animo delle persone con cui praticava fossero impressi due falsi concetti di lei, l'uno di malizia, l'altro di ipocrisia, del che era pur forse cagione la sordità. Ma questo sospetto era in lei ormai invecchiato, e lei nel sospetto. Così pure erano invecchiati e tenacemente radicati nell'aspra sua gorga tedesca alcuni errori di pronunzia, nonostante che ella intendesse benissimo l'italiano. Troncava, per esempio, certe parole giusto dove non doveva e diceva signora e signor con grazia particolare, come si ostinasse a non volere intendere che gli altri dicevano signora e signore. Quante volte intanto Lauretta aveva gridato avanti o herein? La signorina Lander attendeva ancora lì, paziente e assorta, stirandosi lo scialletto di seta verdastra che teneva sempre addosso, primavera sulle spalle e giugno in testa, come Lauretta soleva dire. E giugno erano i capelli color di messe affienita. L'uscio s'aprì di furia, sbacchiando contro la strombatura e facendo sobbalzare la sorda, a cui Lauretta coi capelli disciolti, le belle braccia nude e un asciugamani sorretto col mento sul seno, ripeté stizzita: «Avanti, avanti, avanti!» «Scuse della signorina Alvina. Ecco, già, non aveva inteso perché aveva la mente altrove». Si scervellava da un'ora a immaginare che cosa potesse mai essere accaduta al signor avvocato uscito di casa Zerhumwelt, così per tempo. «Uscito? Come?» domandò Lauretta. «Uscito. Il portiere gli aveva recato, al solito, la posta, ma lettere e giornali erano lì ancora, sulla scrivania, quelle non aperte, questi sotto fascia». «Was soll man denken, Fräulein Laura?» Lauretta impallidì, con gli occhi appuntati nel sospetto che le balenava davanti. Che il padre, oddio, fosse venuto a conoscere da qualche lettera la morte della sorella, la morte della zia Maddalena, che lei da circa 3 mesi gli nascondeva. «Ma e perché era uscito?» «Rannuvolato, Zerhumwelt, come diceva la Lander». Indossò in fretta l'accappatoio e corse alla camera del padre, seguita dalla Lander, che ripeteva «Was soll man denken?» «Che pensare?» «Ma sì, questo, senza dubbio, che aveva saputo della disgrazia». «Però, dov'era la lettera?» Le lettere erano lì, ancora chiuse. Ma erano tutte? Ah, ecco una busta sul tappetino, strappata. Subito Lauretta si chinò a raccoglierla. Una busta listata nero con un francobollo tedesco. L'indirizzo, di minutissima scrittura, diceva Furi in luogo di Furri. La signorina Lander vi fissò gli occhi, impallidendo lei questa volta e indicando francobollo tedesco. Tolse di mano a Lauretta la busta, la esaminò e aggiunse scrittura femminina. Sì, carattere di donna, confermò Lauretta. Ah, Fräulein, esclamò allora la signorina Lander, portandosi alla fronte le grosse mani da maschio e sollevando la messe dei capelli. Disgrazia, disgrazia, certo lettera per me. Oie, oie. Per lei? Perché per lei? Ma no, s'affrettò a replicare Lauretta, nonostante che l'interpretazione della signorina Lander, che la lettera fosse per lei, le paresse in fondo giusta. Guardi, aggiunse per esortarla a far buon animo, è indirizzata a papà. E poi, se fosse come lei sospetta, perché sarebbe uscito papà? Sarebbe venuto da me a dirmelo. Ah, nein, nein, negò subito, recisamente, la Lander, scottendo il capo e frignando in modo comicissimo. Come no? Certo, replicò Lauretta, frenando a stento il riso per quel modo di piangere. Ma la signorina Lander seguitò a dir di no col capo e a frignare, mentre Lauretta, perché no? Avrebbe voluto insistere, ma ritorse invece a se stessa la domanda, guardando la vecchia governante che per la prima volta le appariva come strappata una vita lontana, a lei ignota, e a cui ella non aveva mai avuto occasione di rivolgere il pensiero, non avendo mai concepito nella Lander un essere che per sé esistesse o che avesse potuto esistere fuori dei rapporti di vita con lei che, da bambina, se la era veduta sempre attorno. «Per chi teme, del resto?» le domandò. «Se lei lassù non ha più nessuno!» «Doch!» esclamò tra le lacrime la sorda, levando gli occhi dal fazzoletto. «Ah, sì!» fece Lauretta. «E chi?» «Das darf ich nicht Ihnen sagen!» rispose la governante, nascondendosi la faccia tra le mani. «Non posso né debbo dirglielo!» E se ne uscì, ripetendo tra il pianto la preferita esclamazione. «Oie, oie!» Quando Mario Furri tornò a casa, Lauretta era ancora lì, nella camera di lui, appoggiata alla scrivania e assorta. «Oh, babbo, che è accaduto?» Il Furri guardò la figlia in uno smarrimento di vertigine, come se la vista di lei e la subitanea domanda gli avessero dentro arrestato con freno violento un tumulto. Era pallido, impallidì vieppiù, mentre pur si sforzava a sorridere. «Che è accaduto?» domandò a sua volta, con voce malferma. «Sì, alla signorina Alvina, sta a piangere di là. Sostiene che tu hai ricevuto una lettera per lei dalla Germania». «Per lei? Va, dille che è matta!» rispose il Furri urtato con asprezza. «Ecco, appunto, non era per lei!» esclamò Lauretta. «Gliel'ho detto, e lei no, oie, oie!» «Abbiamo trovato questa busta per terra e...» «Che vuoi? Tu non sei mai uscito di casa così presto. Abbiamo temuto che tu... Sì, siamo entrate!» Un improvviso rossore infiammò il volto di Lauretta, come se le fosse nato il dubbio d'aver commesso un'indiscrezione. Si smarrì. Il padre allora sorrise mestamente dell'imbarazzo della figliuola e, carezzandola sotto il mento, le disse «Non è nulla, non è nulla!» «Va di là, lasciami vedere la posta». «Sì, sì, io, guarda, ancora spettinata», fece Lauretta scappando via sorridente e tuttavia confusa. Ma poco dopo, ecco picchiare all'uscio del signor avvocato la signorina Lander, con gli occhi rossi dal pianto frenato a stento dal fazzoletto che teneva in mano pronto, semmai, a porre un altro argine. «Che vuole da me?» le disse il Furri duramente, senza darle tempo d'aprir bocca. «Chi le ha detto che ho ricevuto una lettera per lei? Lei entra qua, fruga tra le mie carte, trova una busta che non le appartiene e subito le salta in capo non so che cosa. Ma mi dica un po', di grazia, Chi può mai averle scritto da Wiesbaden? E che sciagura potrebbe esserle occorsa? So che ella commette l'inqualificabile leggerezza di scrivere ancora alla sorella di quel signor Valen che ha moglie e figliuoli e debbo sperare non si curi più di lei né punto né poco. Può essere morta la sorella? Può essere morto lui? Che gliene deve importare? Scusi. Ah, nein! Strillò a questo punto, ferita nel cuore, la signorina Lander. Patre di famiglia! No, non dica questa cosa, signor! Morto? Morto? Non è morto nessuno! Gridò a sua volta il Furri. Le ripeto che la lettera non è per lei e non mi faccia perdere la pazienza con codeste follie. Guardi del resto il bollo postale, Wiesbaden, vede? Se non si rassicura, telegrafi a chi sa lei e mi lasci in pace. Voglio restar solo, è permesso? La signorina Lander non rispose. Si portò il fazzoletto agli occhi e si mosse per uscire, scuotendo il capo, certo col sospetto che ora ella non avrebbe potuto assicurarsi più che qualche lettera potesse capitare nelle sue mani, che non fosse prima aperta dal signor avvocato. Il Furri, quantunque avesse ben altro per il capo, la seguì con gli occhi, compreso di stupore. Quella vecchia lì, ingannata in gioventù e tradita dall'amante ammogliatosi poi con un'altra donna, non solo si occupava ancora, dopo tant'anni, della vita di lui fino a farne segretamente la vita stessa del suo cuore, ma, sapendolo nella miseria, gli faceva pervenire, per via indiretta, tutti i suoi risparmi e pareva non avesse altro piacere o sollievo se non quanto di lui pensava fantasticando dietro le notizie che gliene dava una sorella, con la quale era in corrispondenza, o davanti al ritratto di lui custodito in un cofanetto insieme con quelli dei figliuoli non suoi, ma che come suoi ella amava, quella vecchia lì. «Signorina!» chiamò il Furri improvvisamente, scotendosi, mentre ella stava per varcare la soglia. La vecchia signorina si volse di scatto, tese le lunghe braccia e ruppe in singhiozzi. «Morto, è vero? Morto, morto!» «No, per Dio! Vuoi proprio farmi uscire dai gangheri questa mattina?» tuonò il Furri. «Voglio sapere qualcosa da lei. Segga, la prego!» La Lander non piangeva più. Imbalordita, con gli occhi rossi, guardava il Furri e, nell'attesa, era a tratti scossa da certi singulti nel naso. Il Furri stette un po' con una mano sugli occhi, come per vedere quel che pensava dentro e studiare il modo di manifestarlo. «Ricordo che lei una volta, molt'anni or sono, mi disse che conosceva la famiglia di Wichmann, è vero?» «Sì», rispose con esitanza la Lander, non intendendo il perché di quella domanda, perché ormai non poteva più fare a meno di riferir tutto al suo segreto tormento. «La famiglia de Wichmann conosco benissimo. Frau de Wichmann non stava molto lontano d'abitazione da me, giusto nella Wenzelgasse». Lo so, disse il Furri recisamente, per impedire che la vecchia governante, richiamata dal ricordo al paese natale, si perdesse in inutili particolari, a lui peraltro notissimi. Mi dica, oltre alla vecchia zia della signora, quella Frau Lork che abitava a Colonia, sa ella se la famiglia de Wichmann avesse altri parenti in altre città della Germania? La città di nascita della signora de Wichmann, rispose la Lander, dopo aver cercato nella memoria, è Braunschweig. Lo so, interruppe di nuovo il Furri, sono andato fin lassù, ma la madre della signora, che vi abitava ormai sola, era morta da circa un anno, come morta trovai pure a Colonia Frau Lork, la zia. A Braunschweig mi dissero che a Düsseldorf abitava un cugino della de Wichmann, ma a Düsseldorf il cugino non c'era più. Vorrei sapere da lei qualche notizia, se per caso ne avesse, dei parenti del marito. Il luogotenente de Wichmann, s'affrettò a rispondere la signorina Lander con insolita scioltezza di lingua, è morto gloriosamente nella guerra del 70, ma non so la città di nascita, non so che famiglia. Né lui né la signora erano nativi di Bonn, dunque, riprese il Furri. Vi è nata soltanto la signorina? Sì, anni! La mia Hänchen, Hans come tutti la chiamavano, come maschio, perché era così, come si dice, tutto spirito, un caffallino, Hans l'ha conosciuta lei, signor? Sì, rispose, più col cenno del capo che con la parola, il Furri. Qui in Italia? Il Furri ripeté il cenno. Sono ancora in Italia? Domandò esitante la Lander. No. A Bonn, 2 anni, non erano più tornate. Dopo loro viaggio in Italia, venduta casa, mobilio, tutto. Lo so, io, andando in Germania, dovevo rimettere nelle loro mani una lettera importantissima da Roma. Non le ho trovate. Sono andato in giro per loro, ma così, senza nessuna traccia. E dove sono allora? Domandò costernata la Lander. Mi arriva ora una lettera da Wiesbaden. Speravo perciò che lei sapesse dirmi se vi avesse mai avuto residenza qualche parente della famiglia de Wichmann. Se lei non sa, non ho altro da chiederle. Le raccomando, si interruppe, stava per aggiungere, le raccomando di non far parola a Lauretta di questo nostro colloquio. Ma poi, temendo non farle intendere più che non bisognasse, la pregò ad uscire. E quella uscì stordita, ma pur rassicurata per sé, sebbene con la certezza che ci doveva essere sotto qualcosa di grave se il signor era così unwelkt a cagione della lettera per cui tanto lei aveva lagrimato. Hans, sospirò il Furri appena rimasto solo, tentennando leggermente il capo e quasi imitando una voce che venisse da molto lontano aggiunse Riesin, meine liebe Riesin. Strizzò gli occhi, contrasse il volto come per un interno spasimo insopportabile e si mise a passeggiare per la camera mormorando a capochino «Ora! Ora!». Gli occhi a un tratto gli andarono sulla busta, lì sulla scrivania, la prese e rilesse con gli angoli della bocca contratti in giù dallo sdegno. «Furri, ha dimenticato perfino il nome!». Trasse di tasca la lettera listata nero, ma non ebbe animo neanche di posarvi lo sguardo e la richiuse nella busta lacerata. Si rimise a passeggiare. Poco dopo, quasi attirato dalla propria immagine, si fermò davanti allo specchio dell'armadio e, nel vedersi così stravolto, impallidì e si premé forte con una mano il grosso capo calvo, guardandosi fisso negli occhi, imponendo a se stesso di calmarsi, di domare l'interna agitazione. Sparve subito, infatti, la contrazione della fronte, gli ritornò agli occhi, quasi velati da costante cordoglio, lo sguardo fioco che si intonava al pallore del volto contornato da una corta barba brizzolata. Tutto il corpo stanco dimostrava una senilità precoce. Di questo suo rapido deperire s'era fatta al Furri una tremenda fissazione, una costernazione non ovviata mai, alla quale dava in apparenza sostegno di ragione o di scusa il fatto che veramente nessuno della sua numerosa famiglia era pervenuto al limite d'età superato da lui. Ma in quelle condizioni, da lui e dalla sorella Maddalena, credeva ancora per la pietosa cura di Lauretta, vana cura in parte, perché i nipoti lontani, per scusare la mancanza di caratteri di colei, in ogni lettera erano costretti a ripetere che incessanti infermità le impedivano di scrivere. Ogni giorno per lui poteva essere l'ultimo. Certo, avvertiva una grande debolezza alle gambe, come un abbandono di tutte le membra divenute pesanti. Mormorava di tanto in tanto qualche frase su quel suo stato e tendeva l'udito alle lugubri parole, come per sentire egli stesso con che voce le pronunziava. Le improvvise, impulsive ribellioni a quest'incubo sortivan sempre lo stesso effetto, una maggiore angoscia, la riprova che egli era un essere ormai finito. Non era terrore della morte, no, la morte l'aveva tante volte sfidata, da giovine, ma quel doverla aspettare così, quasi spiandola, quel sapere che di minuto in minuto poteva sopravvenire, quell'infinita sospensione nell'attesa che a un tratto qualcosa dovesse mancargli dentro. Ecco il terrore, ecco l'orrenda ambascia. Mario Furri. Mormorò, additando e fissando con torvo sdegno la propria immagine nello specchio. Ma l'immagine ritorse e appuntò contro a lui l'indice teso, come se volesse significare «Tu, non io! Se tu ridessi, io riderei!» Sorrise, difatti, tristemente. Poco dopo si staccò dallo specchio, fermo nel proponimento di non pensare più, per il momento, alla lettera in attesa e di studiare poi pacatamente quel che gli sarebbe convenuto di fare. Ritornò alla scrivania per leggere le altre lettere ricevute la mattina. Scorse la prima, scorse la seconda, a metà della terza piegò il capo sulle mani, sentendo l'incapacità di continuare e quasi la voglia d'addormentarsi. Balzò in piedi, la sonnolenza lo atterriva, ma simulò a se stesso che non tanto la paura d'addormentarsi lo avesse spinto ad alzarsi, quanto un pensiero sortogli in mente all'improvviso. Era meglio, sì, era meglio, per prudenza, raccomandare alla Lander di non far cenno di quella lettera a Lauretta. Non aveva voluto far mai consapevole di nulla la vecchia governante. Si pentiva ora d'averle rivolto quelle inutili domande con la sciocca speranza di poter dalle risposte di lei trarre un filo per uscire dal labirinto delle tante sue supposizioni. Ma l'avergli la Lander domandato se egli conoscesse Anny lo assicurava che non aveva sospetti di sorta. Gli era poi sovvenuta a tempo la scusa verisimilissima della sua ricerca infruttuosa in Germania, quella lettera importante, cioè, da recapitare alla De Wichmann. Anni, anni, se egli la conosceva. 13 anni erano trascorsi dal suo viaggio in Germania, che gli si ridestava adesso nella memoria come un sogno turbinoso. Nessuna traccia di lei, né vicina né lontana. Ma quante notizie, tuttavia, e quanta parte della vita d'anni non aveva raccolte a Bonn. Aveva voluto visitare finanche la casa abbandonata nella Wenzelgasse, come ogni altro luogo della città, per investigare la prima vita di lei. Perché nulla, con l'aiuto delle notizie, al cospetto delle cose intorno, gli restasse ignoto. Lì, per la Poppelsdorf Allee, ella era certo andata a passeggio con le amiche. E lì, sull'ampio e lungo argine del Reno, aveva certo atteso il piccolo battello a vapore che tutto il giorno, come una spola, riallaccia la vita di Bonn a quella di Beuel di rimpetto. O era andata fin dove l'argine termina in un sentieruolo sulla riva che conduce a Godesberg, a Diporto, i di festivi. Tutto, tutto aveva voluto vedere, quasi con gli occhi di lei. E qual segreta corrispondenza non gli era parso di sorprendere tra l'aspetto di quei luoghi e l'indole di Anny. E come le notizie apprese sull'antecedente vita di lei e della madre lo avevano confermato nel concetto che egli s'era formato di loro. Della madre aveva sentito che tutti parlavano male, non quanto però l'odio che egli le portava avrebbe desiderato. Era antipatica a tutti per le sue arie e velleità nobilesche così poco fondate, come quel de davanti al cognome, in luogo del von, dimostrava. Notizie, notizie, ma nessuna traccia, nessuna. Come mai ora, improvvisamente, da Wiesbaden quella lettera? Da Wiesbaden egli era pur passato, vi si era trattenuto 8 giorni, ma c'era Anny allora. Veramente non aveva più alcun indizio per cercarla in quella città. Era morta dunque a Wiesbaden la signora De Wichmann, come la lettera di Anny annunziava? Quando era morta? Anny non precisava né il tempo né il luogo, non precisava nulla, fuorché il giorno che sarebbe arrivata a Roma. Coi gomiti sulla ribalta della scrivania, la testa tra le mani e gli occhi chiusi, il Furri si immerse negli antichi ricordi. Era come se si conficcasse una lama in una vecchia ferita. Ma il pudore dell'età, la coscienza dello stato in cui era ridotto, non gli consentivano indugio nella tenerezza di certi ricordi. Ricordando, voleva giudicare e, giudicando, raffermarsi in un proposito irremovibile. Dietro una porta chiusa, un mondo di cose morte. Là dentro il sole non poteva né doveva più penetrare. Vi entrava lui per cercare, ma con tal sentimento, come se dovesse trovarvi fra l'altro bambole e giocattoli appartenuti a bambini morti, cose che le mani d'un vecchio dovevano scostare e sfuggire. Dopo avrebbe richiuso la porta e si sarebbe messo a guardia contro chiunque avesse voluto forzarla. In quel nascondiglio buio dei ricordi era pure una culla abbandonata, la culla di Lauretta ignara. Sì, la mamma è morta, figliuola mia, morta nel darti alla luce. E ritratti di lei non ne hai? No, nessuno. E com'era, babbo? Com'era? Il Furri, a ricordo di questo lontano dialogo con la figlia fanciulletta, s'addentò furiosamente una mano per soffocare i singhiozzi irrompenti che gli scotevano tutta la persona. «Si parte, Lauretta! Domani andiamo via!» annunziò il Furri, uscendo dalla sua camera per la colazione. «Si parte? E per dove?» domandò Lauretta sorpresa. «Domani, babbo, è la settimana santa!» «Che importa?» «Domani, mercoledì, è vero? L'essere santo impedisce forse di partire?» «No, ma domani è impossibile, babbo. Se non mi do prima a preparare ciò che fa bisogno, avresti dovuto dirmelo avanti, che quest'anno intendevi anticipare di tanto la partenza.» «Ma non si anticipa. Andremo soltanto per una breve ricognizione. Mi spiego, quest'anno non vorrei andare in montagna o andarci tardi. E allora ho pensato, la primavera qua, ai castelli, poi al mare, per te, e semmai l'ultimo mese in montagna, al solito. Ora andremo per 3 o 4 giorni, una visitina ai castelli. Ti sceglierai il nido e ritorneremo. Via, padroncina, dite di sì, ne ho bisogno.» «Quando è così?» esclamò Lauretta. «Grazie, e le mie civiltà», disse il Furri inchinandosi. Lauretta rise del buon umore del padre. «Le mie civiltà» era il modo d'accomiatarsi nelle lettere d'un mercante di Torino che provvedeva a Lauretta delle stoffe per gli abiti. A tavola poi concertarono l'itinerario della gita. Il Furri non disse alla figlia che il giovedì avrebbe dovuto lasciarla sola con la governante. «E allora perché partire domani?» avrebbe potuto domandargli Lauretta, che ora si mostrava tutta lieta di quella partenza improvvisa e già proponeva, giusto per giovedì, un'ascensione a Monte Cave. E mentre il Furri ascoltava il caro chiacchierio, pensava: «Perché si parte? Se io te lo dicessi, figlia mia bella, figlia mia che ridi?» Anni sarebbe, appunto, arrivata giovedì. Bisognava che egli si trovasse ad accoglierla alla stazione. L'interno sconvolgimento gli dava intanto un'insolita vivacità di gesti e di parole. Lauretta non ricordava d'aver mai veduto il padre così, e il Furri, nel compiacersi del buon effetto della sua dissimulazione, pigliava animo per la tremenda prova che lo attendeva, pur con la coscienza che quello sforzo avrebbe amaramente scontato, seppure non gli sarebbe riuscito addirittura fatale. E anche di questo faceva segretamente carico a colei, e non tanto per sé quanto per la figliuola, pensando alla quale un dubbio angoscioso gli teneva tuttavia l'animo sospeso. Come sarebbe rimasta Lauretta quando, tra poco, e forse anche per questo colpo improvviso, egli non sarebbe più? Non era forse provvidenziale e quasi un annunzio della sua prossima fine la venuta di colei? In premio della tua vita intemerata, in compenso del tuo lungo soffrire e dei tuoi sacrifici, non morrai angosciato dal pensiero di lasciare sola tua figlia e senza aiuto? Eccoti la madre, che viene a prendere accanto a lei il tuo posto. Mario Furri era credente e inoltre, per la sua fissazione, tenuto e legato da superstizioni. Se non che, quale madre veniva a prendere il suo posto? Per Lauretta la sua mamma era morta. Chi sarebbe stata ora costei? Un'estranea, un'intrusa che, comunque, non avrebbe mai potuto incarnare l'immagine che la figliuola, fantasticando in un passato senza ricordi, s'era creata della propria madre morta nel darle la vita. Quale comunione d'affetti, da un altro canto, avrebbe potuto stabilirsi tra colei e la figlia se egli le avesse detto tutto? Era meglio aspettare, prima di prendere una decisione, vederla, parlarle. Soltanto, questo sì, condurre lontano la figlia, sottrarla a ogni probabile pericolo. Partirono la mattina dopo. Non fu possibile a Lauretta impedire che la signorina Lander si mettesse un cappellaccio di paglia che pareva un canestro rovesciato sulla messe dei capelli. La vecchia governante portava con sé il cofanetto, ove erano custoditi i ritratti del signor Valen e famiglia, e s'ostinava intanto a sorprendere di tratto in tratto evidentissime somiglianze tra quel lembo laziale e le contrade del Reno presso Bonn. Lauretta ebbe l'ingenuità di mettersi a discutere con lei, ravvicinando piuttosto Monte Cave coi boschi e i laghi a un pezzo di Svizzera, lì, che delizia, a 2 passi da Roma, con di più il mare, che di lassù si scorge benissimo, specie nelle notti di luna. Ma no, Monte Cave con la vetta incoronata d'aceri e faggi, per la signorina Lander era, naturalmente, tal quale il Drachenfels. Tanto vero che, ove lì, sulla vetta, ci sono le rovine d'un antico castello, qui c'è un convento, tal quale. E se n'appellava al signor avvocato. Il Furri non badava a quei discorsi, guardava fuori, dal finestrino. Ricordava, e gli pareva di sognare. Ora come allora, in treno. Da Novara andava a Torino. Gli era nata una bambina. Andava in fretta per una baglia. La bambina era là, dietro quei monti, in una campagna presso Novara, con la madre. «Babbo, scommessa fatta!» gridò un tratto Lauretta. «Rinunzio al mare, rinunzio alle Alpi, quest'estate a Bon sul Reno!» «Che scommessa?» domandò il Furri, turbato. «Tra me e Fräulein Lander!» «No, io!» balbettò la signorina Alvina per scusarsi. «Ecco, si scende!» interruppe entrambi il Furri. «Vedremo poi, vedremo!» Si sforzò di parer lieto tutto quel giorno a Castel Gandolfo, ad Albano. La sera, rientrando all'albergo per la cena, annunciò alla figlia che la mattina seguente, per tempo, avrebbe dovuto trovarsi a Roma per un affare che s'era dimenticato di sbrigare. «E Monte Cave?» domandò Lauretta contrariata, ma infine si rimise. Dalla finestra dell'albergo, la mattina dopo, gridò al padre che partiva: «Aspetto di scrivere, che tu sia tornato!» E il padre, già in vettura per la stazione, assentì sorridendo. Una veste nuova di mezza stagione e un cappellino di paglia. Ecco a che pensava in quel momento la figlietta sua. «La riconoscerò?» domandava a se stesso il Furri passeggiando sulla banchina della stazione, in attesa del treno da Firenze. Socchiudendo gli occhi, richiamava l'immagine di lei, rilevata e spirante nella sua memoria, di lei a 19 anni, in una testina da birichino, coi capelli tagliati a tondo maschilmente, due occhietti furbi brillanti e provocanti, quasi armati di spilli luminosi, e la bocca accesa, dai piccoli denti pari, aperta sempre a un riso vibrante di fremiti, dalla quale sgorgava la voce tutta trilli e scivoli, alto il corpo agile e svelto sull'esilissima vita, ma dovizioso il seno e incarnate le guance. «E ora?» Il Furri computava gli anni. Doveva già averne 35, e poiché aveva potuto abbandonare la figlia appena nata e vivere 80 anni senza domandarne notizia, ignorandone finanche il nome, poteva essere, nell'anima e nel corpo, se non più troppo giovane come prima, molto giovane ancora, a ogni modo giovane. E lui? Non che sperare, riteneva il Furri assolutamente inammissibile che ella potesse riconoscere in lui, in quel suo corpo cadente, nel volto già disfatto, il Mario d'allora, il gigante, il Riese, come lei lo chiamava, pretendendo che egli chiamasse lei Riesin, gigantessa, meine liebe Riesin, e ne rideva, già che quel Riesin lo pronunziava così dolcemente, come se le dicesse invece fiorellino. Molta gente attendeva con lui il treno da Firenze già in ritardo. Il Furri pensò di piantarsi presso l'uscita, per modo che tutti i viaggiatori gli passassero sotto gli occhi. Fu dato finalmente il segnale d'arrivo. I numerosi aspettanti s'affollarono, con gli occhi al treno che entrava sbuffando strepitoso nella stazione. «Roma! Roma!» Si schiusero i primi sportelli. La gente accorse ansiosa, cercando da una vettura all'altra. Il Furri non seppe trattenersi alla posta, spinto quasi dall'ansia degli altri. A un tratto si fermò. «Eccola, deve essere lei!» Una signora bionda, vestita di nero, sporse il capo dal finestrino e lo ritrasse subito. Un signore aprì dall'interno lo sportello. Il Furri aspettò poco discosto. La signora fece per discendere, ma sul predellino si volse verso l'interno della vettura ad abbracciare e baciare un bambino di circa 2 anni. «Adieu, adieu, mon petit rien!» Era la voce di lei. «Anni!» Si voltò, saltò agile e svelta dal predellino, guardò il Furri fermandosi strizzando un po' gli occhi, quasi un dubbio che la voce non fosse partita da lui, ma egli le tese la mano. «Oh!» fece Anni, accorrendo imbarazzata, con un sorriso nervoso sulle labbra. «Aspetta, le valigie!» aggiunse subito, volgendosi verso la vettura. Il signore che aveva aperto lo sportello gliele porgeva. Il Furri spinse subito un facchino a prenderle e Anny ringraziò in francese il signore. Poi si rivolse al Furri, aprendo la borsetta da viaggio a tracolla e, traendone uno scontrino, aggiunse in tedesco: «Subito, subito, il mio piccolo povero Mopy! Povera bestia, non vede da 3 giorni la sua padroncina e poi...» Trasse altri 2 scontrini dalla borsetta, i bauli. Il Furri, quantunque stupito da tanta disinvoltura, intuì subito che questa non veniva da sfrontatezza, per come aveva malignato all'annunzio dell'arrivo, ma da vera e propria incoscienza. Lo dimostrava l'eleganza dell'abito da viaggio, tutta l'accurata persona ancora fresca e florida, sebbene di forme più complesse, ma forse perciò più piacente. Ecco, ed era venuta col cagnolino, e non si dava pensiero d'altro, appena giunta. «Subito, subito!» Prese quasi esitante quegli scontrini. Avrebbe voluto gridarle: «Ma guarda prima chi li dai! Guardami! Mi vedi? Come la vista mia non ti fa cadere le braccia?» Si mosse e lei dietro. «Prima Mopchen, la povera bestia, poi Bauli. Sei venuto solo!» riprese ella. «Ma aspettavo che...» Il Furri piegò il capo sul petto, alzando le spalle, come se ella lo avesse colpito di dietro. «Come si chiama?» Non rispose, seguitò ad andare con le spalle alzate. «Come si chiama?» «Non qui, non qui!» pregò smaniando il Furri. «Lauretta!» «Ah, Laura, bionda?» Egli chinò il capo più volte. «Bionda, e ora tu, tutto bianco, povero vecchio Ries, e dimmi, parleremo poi, ti prego, parleremo poi!» La interruppe il Furri, non reggendo più alla tortura di quelle domande. Appena ella ebbe tra le mani il cagnolino che gagnolava e si storcignava tutto dalla gioia, cominciò a sbaciucchiarlo, a confortarlo con frasucce carezzevoli. E gli diceva che tra poco avrebbe trovato un'altra padroncina. «Laura, Mopchen, si chiama Laura, bionda, Mopchen, e tu così nero, e quest'altro tuo padrone così bianco, e brutto, e cattivo, che non vuol dirti nulla. Fa vedere, Mopchen, come bacerai la nuova padroncina. Un bacio, così, bravo Mopchen. Basta, basta, adesso prendi...» Aprì la borsetta da viaggio e ne trasse una zolla di zucchero per la bestiola festante. «I bauli», disse il Furri con voce roca, come se le parole gli facessero groppo alla gola. «I bauli sarà meglio lasciarli qui». «Come?» esclamò sorpresa Anny. «Sì, domani, se mai, manderemo a prenderli». «Ma no, caro, e come faccio io? Vuoi che rimanga così? Uno almeno è necessario portarlo con noi. Vieni, ti dirò io quale dei due». Montati finalmente in vettura, Anny cominciò a sentirsi un po' a disagio accanto al compagno, che si teneva chiuso e quasi ristretto in sé, come se sentisse freddo. Egli non la guardava, guardava innanzi a sé, con le ciglia un po' aggrottate, triste e assorto. «Quante cose abbiamo da dirci!» bisbigliò Anny, prendendogli una mano. Egli aggrottò maggiormente le ciglia, accennando di sì col capo e traendo un lungo sospiro. «Non mi stringi la mano!» «Non sei contento che io sia venuta?» domandò sommessamente poco dopo e aggiunse: «Lo so, ma vedrai, non ci ho colpa, la mamma...» Si interruppe, si portò subito il fazzoletto agli occhi. Il Furri si voltò a guardarla. Il fazzoletto era listato di nero. «Parleremo poi, ti prego, Anny», ripeté più commosso che intenerito. «Sì, sì, a casa. Quieto, Mopy! Oh, ma non credere che sia venuta così. Non sarei venuta se non avessi incontrato nel Kurgarten a Wiesbaden, indovina chi? Il Giovi, l'amico nostro di Torino, che m'ha parlato tanto di te. Io pensavo, non so, pensavo tra l'altro, sì, che tu ti fossi ammogliato. Pensavo che la piccina potesse anche non vivere più». «Vive», m'ha detto il Giovi, «sta con lui». E io sono corsa ad annunziarlo a questo mostro qui. «È vero, Mopchen? Come t'ho detto, vive, vive, la padroncina vive, noi l'abbiamo chiamata Mary, è vero? Il Giovi m'ha anche detto che tu hai preso per lei una governante tedesca, una vecchia, è vero? Laura dunque parla il tedesco, mentre io non so più parlare l'italiano. Ho provato col Giovi, l'ho fatto ridere, ah, come egli si diverte a Wiesbaden. È sempre quello di prima, soltanto non ha più quell'enorme barbone. Io non l'avrei riconosciuto, ma riconosciuta lui. Ma a momenti non ha più nemmeno i baffi. Diventa tutto bianco e non volendo ricorrere ai cosmetici, taglia, taglia, capisci? Sarchia anche i baffi, quel bel paio di baffi. Perché, Giovi? Gli domandai. Dice, non lo sa neppure lui, per istinto giovanile, m'ha risposto. Ma poi si è tolto il cappello e battendosi con una mano il capo calvo ha esclamato, eppure, ecco qua, piazza della vecchiaia. M'ha detto che sei calvo anche tu, fa vedere. Il Furti ebbe quasi l'impeto di saltare dalla vettura, fuggire. Scommetto, disse, che tu non hai un solo capello bianco, è vero? Ah, neppure uno, esclamò Anni trionfante. Ti sfido a trovarmene uno, vedrai, ma anche la mamma, sai, poverina, m'è morta, sai, con tutti quei suoi capelli ancora biondi come l'oro. Ah, i capelli della mamma, io non ne ho neanche la metà. E ora mi parla della madre, pensava il Furri stupito e, ormai, dall'incoscienza di colei, irritato più a sdegno che a ira. Ah, fece Anni improvvisamente, sollevando la mano di lui, che teneva ancora nella sua. Il mio anellino, fa vedere. E poiché gli ritrasse la mano quasi istintivamente, fa vedere, insisté Anni. Oh, come ti stringe il dito! Puoi tenerlo ancora, non ti fa male. Io, il tuo, la mamma me lo levò. Credevo lo tenesse nascosto, l'ho cercato, non l'ho trovato. Chissà che ne avrà fatto, l'avrà buttato via. Ha fatto bene, disse il Furri, quasi senza volerlo. Ah no, guarda, esclamò Anni, mostrandogli le due mani bellissime. Non ne ho più tenuti da allora. Il Furri la guardò fisso e quasi con durezza, come non potesse più trattenere le tante domande che gli facevano ressa le labbra. «Nessuno!» ripeté Anni con fermezza. «Soltanto per pochi giorni quello tolto dalla mano della mamma morta era l'anello nuziale del babbo, una sacra memoria». Fine prima parte della novella Vexilla Regis. Registrazione di Maria Teresa, Trento.